Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo a tutti, amici di Runtime Radio. C'è pure Michela. Buongiorno, buongiorno. Sono qui di passaggio per ringraziare il mio prote marito che mi sostituisce oggi. Eppure è giovedì, perché no, giovedì. Comunque. Giovedì poi vediamo, magari ci spostiamo con Leo. Dai, mo vediamo un attimo. Vediamo. Sì, diciamo che vabbè, c'ho avuto un momento di burnout, si chiama così, troppo stress sul lavoro, mi sono un attimo incastrata mentalmente e quindi niente, non ce la facevo a preparare la puntata, non me la sentivo di farla e quindi ho mandato Simone e lo ringrazio. Ho dato mandato a Simone e lo ringrazio e quindi vi saluto a tutti, ci tenevo a salutarvi e ringraziarlo pubblicamente per essermi accanto in questo momento così un po' tosto, insomma. Salutiamo DJ Joker subito in diretta. Yes. Aspettiamo magari che arrivano anche gli altri. Tra l'altro, durante queste settimane io ascoltavo la sigla di Buongiorno un cazzo e mi rendo conto che oramai è vecchia sta cosa, cioè, è da cambiare. Quindi se avete suggerimenti, tipo metti quella frase lì, metti quell'altra frase lì, poi uno se le va a cercare su YouTube, si estrapola l'audio, perché insomma penso che sia da ragionare, anche se un po' mi dispiace perché mi mancherà, perché secondo me questa sigla in particolare fotografa veramente fotografa un momento della nostra storia. Però dai, insomma, vabbè, la mafia non ha più quella sensibilità, oppure il mandato zero, dai, cose che oramai la gente si è quasi già dimenticata, il che è anche peggio, naturalmente. Direi di sì. E allora io partirei col brano del giorno, che giustamente, essendo una trasmissione che vi dà il buongiorno, pure la canzone vi dà il buongiorno, anche se io non l'ho mai sentita, devo dire la verità. E sentiamo adesso. Forse, non è detto, perché fa la rodellina. Quando fa la è rodellina. Morta la canzone. Ecco la canzone. È roba che stanno avanti. Insomma, diciamo che è esattamente i rumori che ho nella mia testa stamattina, che sembra un po' una pignatta, capito? Cioè, avete presente le pignatte, quelle che appese e tu le rompi e splash, escono fuori tutte cose bellissime dalla pignatta. Buongiorno, allora dicevo, non ho molti argomenti, anzi non ce l'ho per niente perché mi sono dovuto un po' improvvisare, però a differenza di questo brano che in questo momento rappresenta insomma il rumore della mia testa, in realtà il resto della puntata sarà molto country. Scusate, però vedete, sta scendendo tutto, l'umidità di questa notte sta scendendo tutto e quindi adesso avrò un po' starnuto, faccio cose, insomma, oppure c'ho il Covid, chi lo sa. Perché mia moglie, ricordatevi che qualsiasi movimento che tu fai, che c'ha a che fare con la salute, è il Covid, insomma. E sì, la canzone era carina, ma in realtà è abbastanza disturbante per la mattina, no? Cioè ti dice com'è, buongiorno un cazzo, ecco, questa qua è uno, insomma, te lo dice, insomma, abbastanza bene. E volevo dire, vi ricordo appunto che il 6 febbraio alle ore 16 io vado in live per 2 ore per festeggiare il mio 50° compleanno e come stiamo dicendo anche negli altri podcast, nelle altre trasmissioni, mi piacerebbe ricevere da tutti un messaggio audio, diciamo, un pensiero, una riflessione o anche una domanda alla quale magari io posso rispondere, insomma, anche per variegare un po' la trasmissione, mettere un po' di curiosità, di, insomma, anche renderla anche divertente. Potete farlo tramite Telegram, naturalmente, direttamente a me in privato, oppure mandarmi una mail se proprio non non vi via tramite Telegram o vi riesce meglio in quell'altra maniera. Se volete potete mandare anche una mail a runtimeradio@gmail.com e scrivere, che ne so, per Simone o compleanno Simone e via dicendo, insomma, potete insomma scrivere o dire o fare audio, insomma, di quello che volete, chiaramente, insomma, nei limiti della decenza, che è una cosa abbastanza importante. E invece questa mattina stavo sbagliando, perché adesso in questo momento abbiamo due, stiamo lavorando alacremente per un cambio tecnico della radio, che alla sostanza non cambierà molto, ma per noi cambierà molto, perché comunque sarà una questione che potremo gestire direttamente in toto al 100% noi, senza dover avere l'intermediazione di chi ci fornisce il servizio, che ti limita nel poter utilizzare ovviamente il software di gestione della radio. Sta cambiando questa cosa e ci stiamo lavorando, stiamo cercando di leggere, diciamo tra virgolette, tutti i problemi che si possono verificare, e per ora insomma le cose stanno andando meglio di quello che mi aspettavo, e quindi inizieranno dei test ancora più probanti. E la cosa bella è che praticamente stamattina avrei potuto sbagliare lo stream e magari trasmettere in un posto dove voi non l'avreste potuto sentire la radio, ma tanto vedo che non è che mi sembra che stamattina ci siamo svegliati tutti, insomma, anzi. E detto questo, grandi cambiamenti, appunto. Quindi insomma, ricordatevi il 6 febbraio alle 16, io sarò live, e ricordatevi insomma che se ogni tanto troverete insomma qualche piccolo problema, qualche piccolo disservizio nel flusso che ascoltate, è semplicemente perché ovviamente stiamo lavorando dietro alle quinte per cercare di migliorare chiaramente il servizio. Le cose che cambieranno saranno un player più reattivo, le informazioni, quindi i tag sulle canzoni, sarà sicuramente più reattivo. Ci sarà l'opzione per poter vedere le ultime 15 cose trasmesse dalla radio, quindi brani musicali o trasmissioni. Cliccando ovviamente tu avrai l'elenco per vedere cosa è andato in onda e quando, perché magari, come succede spesso alla nostra Melanie, dice, ascoltando Runtime Radio, c'è quella canzone che gli piace, mi scrive giustamente, dice che canzone era alle 16:24, guarda in questo momento non lo posso sapere neanche io, ma quando sarà appunto attivo il nuovo server, questa cosa sarà possibile, ed è una cosa abbastanza interessante, perché comunque invece di scervellarci o aspettare che quella canzone ripassa, magari uno insomma vede quei due o tre pezzi, poi considerando che la stragrande maggioranza dei nostri pezzi sono creati in common, è anche facile insomma, poi dopo che uno sa il nome, il brano, il nome del brano e la band, insomma è anche facile andarle a recuperare, e questo insomma è quello che mi immagino che magari uno che è interessato potrebbe fare, e potrebbe anche essere utile, perché magari se uno c'ha un negozio, una cosa via dicendo, insomma ecco, diciamo sono musiche che sono canzoni che possono essere trasmesse con maggiore libertà rispetto a quello che non succederebbe con la SIAE. E poi altre cose che poi magari aggiungeremo piano piano, man mano nel tempo, magari servizi, diciamo, all'interno dello streaming che potremmo aggiungere piano piano, perché adesso abbiamo l'opportunità, se ci sono degli add-on, dei plugin, delle cose che potremmo inserire, ma con molta calma, perché ovviamente poi avremo anche un server mirror nel quale ovviamente faremo le sperimentazioni e vedere se le cose funzionano prima di buttarle nella mischia e fare dei disastri, così come è successo in realtà sul server nel quale paghiamo, che è stato inserito un aggiornamento che non era del tutto compatibile con il server e si è sputtanato tutto, ed è per questo che io a Melanie non ho potuto dire che canzone era quella da ora, perché è tutto completamente squilibrato e scazzato, insomma. Quindi va bene, dai, allora adesso proviamo anche a parlare di qualcosa, ci proviamo, ma prima il primo brano, primo dei quattro brani country di questa mattina. I know you ain't doing this to yourself. Stop what you're doing and let him go. Pack up all your things. When you're finally done, call me up, sweet mama, we'll run. 'Cause oh, what a way to live a life, living in pain and fear as a wife. I said next time he hurts you, I'll know when. time will be the last he ever hurt you. Girl, all your extra makeup on at work, we all feel it too, we know you're hurt. Time will pass before you know what's real. I can't change the way you feel. But oh, what a way to live a life. Living in pain and fear as a wife. Myself next time he hurts you, I'll know. Time will be the last he ever hurts you again. Much longer will you take? Don't drown in what's around you, let him go. Won't you find your new surrounding with the man who loves you so? The man I know will treat you like you're worth your weight. Ebbene, questa era A Song for a Friend. Sì, è vero che il country sono tutte uguali, le canzoni sono tutte ballad così. Però non so perché mi piace, cioè nel senso comunque alla fine mi trasporta in un mi trasporta dal punto di vista proprio visivo delle immagini, no? E quindi questa cosa mi piace, mi è sempre piaciuto, insomma, quindi devo dire la verità, come tipo di sonorità la trovo molto intima, molto riflessiva. Quindi associ questa immagine di un pensiero intimo alla vastità ovviamente della prateria del cazzo che ce ne frega anche un pochetto. E, volevo dire, mentre mi sembra che sia apparso qualcuno, se c'è Michela, c'è Michela e DJ Joker ci ha salutato prima ovviamente all'inizio. Volevo dire un'altra cosa. Ah sì, dopo comunque successivamente alla puntata di Buongiorno un cazzo trasmetterò in replica, trasmetteremo ovviamente la puntata dell'altra sera di mercoledì scorso, mi pare, o giovedì scorso, di MDB Summer Radio di Alex Raccuglia e Roberto Marin, che è uscita in podcast, la trovate adesso in podcast, la potete tranquillamente scaricare, la trasmetteremo insomma subito dopo questa diretta. E volevo dire una cosa che ascoltavamo ieri ovviamente con Michela mentre cenavamo, insomma ascoltando tramite Alexa le varie notizie, il fatto che comunque ci saranno delle modifiche strutturali all'utilizzo dei bonus edilizi, che ovviamente in questo momento hanno creato un grosso movimento da un certo punto di vista, che appunto è quello dell'attuazione o della messa in esecuzione di ristrutturazioni di palazzi anche vecchi, appartamenti e cose che riguardano soprattutto anche il risparmio energetico, quindi comunque un adeguamento diciamo di determinate realtà edilizie affinché ci sia la possibilità ovviamente di avere dei benefici in generale dal punto di vista dell'illuminazione, dell'energia, del calore e via dicendo, no? E più ovviamente anche opere di adeguamento in generale. e insomma queste modifiche pare che siano state necessarie. Io però questo poi ne fa un po' specie, no? E qui ci riflettiamo, perché più che la notizia in sé, no? Sono state necessarie ovviamente queste modifiche perché insomma pare che ci sono miliardi di euro di truffe, ovviamente con tra ovviamente imprenditori zozzoni e commercialisti compiacenti che facevano queste manovre legate al credito fiscale ovviamente che le persone o i condomini davano alle aziende, e questi qua praticamente cioè, giocavano a pallone con questi crediti, se li spacciavano, li riutilizzavano. Era come quando tu pagavi una persona con l'assegno e lui l'assegno lo girava un altro per pagare un'altra cosa, insomma, più o meno, insomma, e quindi qualcuno ci sei un po' arricchito. Il problema è che quando tu senti questa notizia è come se tu dici hai sentito e rimani stupito da sta cosa, no? Dici ammazza, ma chi se lo sarebbe mai creso che succedeva una cosa del genere? E invece quando tu leggi o ascolti una cosa del genere dici sai che vabbè, che c'è una cosa di cui ti stupisci, cioè si sapeva che era così, e tant'è che mi fa sempre specie, e secondo me qui c'è un po' la malizia, diciamo, di questo tipo di discorso, sta nel fatto che secondo me alla fine queste leggi, queste normative vengono fatte sempre così un po' più all'acqua e rose, perché intanto alla fine magnate tutti, poi dopo quando avete magnato in troppi ci corriamo i ripari perché giustamente qualcuno se ne accorge. Ma io penso che sarebbe bastata anche una semplice vigilanza, oltre a mettere dei paletti già allora, no? A suo tempo, quando tu pensi una legge devi pensare anche al fatto che succederanno delle cose sbagliate con questa legge, e a meno che ovviamente non è la tua intenzione, perché magari fai contento qualcuno, insomma questa cosa ti stupisce sempre. Ma io faccio sempre l'esempio non tanto del discorso dell'edilizia in generale, perché sì, la cosa non mi stupisce, ma è bastato vedere le caldaie che da 1500 euro improvvisamente costavano 3000 euro, non so se ve ne siete mai accorti. E insomma, qui si trattava della base della vigilanza, insomma, e non è che se tu andavi, potevi fare una denuncia, ma che tu non sei nessuno, e non è che qui poi si crea sempre sto sistema, ecco perché poi fai fatica anche a credere alle associazioni di categorie, associazioni di consumatori, così come in altri ambiti di cui una volta vi racconterò in puntata, raccontandomi quello che successe a Roma con i palazzi ex INA che sono stati venduti successivamente a un referendum, ragazzi, una cosa terribile, poi vi racconterò. E quindi vabbè, cioè, alla fine bastava una semplice vigilanza, perché secondo me non è possibile che non esista un'associazione di categoria che non si rende conto che improvvisamente ovunque, da Amazon al negozio dell'installatore sotto casa, le caldaie da 1500 euro improvvisamente sono costate 1000 euro, e quindi quando tu sei andato con lo sconto in fattura a installarti la nuova caldaia, che ovviamente hai pagato 50% di meno, in realtà l'hai pagata esattamente quanto tu l'avresti dovuta pagare, il che significa che queste persone non è che hanno fatto la cresta sulla cosa, hanno incassato il doppio fondamentalmente. E questa è la cosa che allora, quello che veramente mi fa specie è che c'è la mentalità dietro, cioè è possibile che invece di pensare a lavorare onestamente c'è sempre quella tua subcultura che è atta a fregare qualcuno, a fregare, a rubare. Ecco, noi c'abbiamo la cultura del ruba, che è una cosa incredibile se ci pensate, cioè è proprio il presupposto, cioè non c'è, cazzo, ma lavora, ma fa le cose fatte come si deve. Ma invece di stare a pensare, tanto i soldi li guadagni, no, noi c'è l'opportunità, dobbiamo andare a rubare. Sai, lo fa uno, lo fanno in cinque, lo posso pure capire, sta sempre a me la marcia. No, è una cosa sistematica, diventa sistema. Probabilmente se non lo fai, te menano pure. Cioè, non faccio fatica a pensare a una cosa del genere. Cioè, oh, ma che fa? Quello non ruba. Cioè, andiamogli a dare due sganassoni. That's Thousand Good Miles. Carina anche questa, vedete, dopo i 99 posti stamattina poi alla fine ci siamo indolciti, ci siamo dati questo tono, questo sound un po' più dolce, un po' più country, un po' più volemo se bene. E poi in realtà se le canzoni dicono che se l'uomo vuole bene, non lo so, perché non stavo a sentire, stavo a leggere stavo a leggere varie cose nel mentre, perché giustamente poi alla fine c'è tutto un lavoro di gestione. E alla fine dicevamo ieri sera in OGM che finalmente c'è il presidente, hanno fatto il presidente. E questa cosa del presidente della Repubblica mi fa anche venire in mente il fatto che esce fuori un discorso che io ho fatto diverse volte, no? Una volta i partiti, quando c'erano i partiti quelli consolidati, quelli tradizionali, diciamo così, tutta la parte giovanile dei partiti, diciamo, venivano istradati nelle scuole politiche, nelle scuole di partito, chiaramente, che non erano solo cioè scuole specifiche del partito, erano le scuole del partito sicuramente, ma erano comunque scuole politiche, scuole che insegnavano ai giovani che volevano fare politica a fare politica, come funziona la politica, come funziona istituzionalmente, come ci si deve comportare, qual è il protocollo, qual è l'etichetta, no? E queste sono cose che ogni tanto io rimarco, perché quando io vedo la politica di oggi mi rendo conto che è tutta gente tra virgolette scappata di casa. Cioè 30 anni fa la maggior parte dei parlamentari che siedono oggi nel nostro Parlamento, secondo me non sarebbero stati proprio minimamente proponibili, probabilmente. E non è soltanto una questione di educazione, cioè quindi tutto quell'atteggiamento riottoso, borioso, comportamenti maleducati, strilla, striscioni, cori da stadio e via dicendo, che magari certe esultanze, certe cose magari sono sempre state. È proprio l'incapacità di saper gestire la politica che è la cosa più rilevante, perché se voi considerate una persona come Salvini e Meloni, che in qualche maniera si sono passate il testimone di personaggio rilevante, uno perché praticamente ha fatto una campagna mediatica importante, cioè era praticamente ovunque, in ogni cosa aveva sempre qualcosa da dire, aveva sempre da esprimere considerazioni, e poi no, sempre sbucava fuori, no, fino a che non si è reso conto che questa sovraesposizione non solo rischiava di diventare dannosa in generale, questo, ma in particolare in questi tempi dove si fa facile diventare influencer, sparire, ecco, magari al posto di qualcun altro che è più divertente di te, perché poi alla fine un po' il discorso è questo. E poi anche questa cosa del no, che poi è stato un po' preso dalla Meloni, che sembrava dare il senso, intanto ciao Walter, ci stavamo quasi preoccupando, che dava praticamente il oddio, mi sono perso. Vabbè, comunque il discorso è che questo passaggio di consegne tra Salvini e Meloni come personaggi rilevanti hanno dimostrato quanto ovviamente la politica oggi sia facilmente influenzabile da un certo punto di vista, ma sicuramente hanno anche dimostrato quanto l'incapacità, quindi la scarsa cultura politica, diciamo, di queste persone. E per cultura politica non si intende soltanto la conoscenza della politica in quanto meccanismi tecnici, ma anche dal punto di vista strategico, alla fine risulta fondamentale, perché in uno scacchiere strategico e tattico come quello politico, chiaramente si può anche sbagliare o si può anche fare come ha fatto una determinata area politica, non fare niente e aspettare che sbagliano gli altri, ma anche quella è comunque una strategia che magari risulta meno palese, meno evidente, come posso dire, meno al centro dell'attenzione, ma è una strategia. E secondo me uno dei motivi per i quali ovviamente questi nuovi politici non sono adeguati o non sono stati abituati o non sono stati istruiti alla politica sta proprio nel loro egocentrismo, no? Nel fatto che si rendono conto a un certo punto di essere nella cresta dell'onda e secondo me perdono il controllo, cosa che invece a un politico di 40 anni fa questa cosa non sarebbe potuta succedere, perché quello che riusciva a costruire per arrivare a un determinato apice era un lavoro lento e costruito, e quando tu arrivavi a una determinata rilevanza, mettiamo un Berlinguer, non è che impazzivi e cominciavi a dire cose o a fatti di forza o roba del genere, perché la politica è sempre stata in Italia frutto di una mediazione. Questa è una cosa che dal berlusconismo in poi è stata sempre contestata, perché la politica in Italia ci metteva tempo per elaborare o per definire o decidere determinate cose, mentre che invece un capo d'azienda, il grande leader, prende decisioni al posto di tutti e quindi le cose diventano più veloci. Sì, ma dall'altra parte chiaramente una decisione presa in questa maniera finisce sempre per scontentare la grande maggioranza di persone, quando invece la politica era strutturata in senso conciliativo, diciamo, quindi cercando di creare sempre una mediazione, quando c'era una strategia, un'attenzione anche a tutte le varie parti, e questo ovviamente succedeva di meno. Ci si metteva di più a fare un certo tipo di procedimento, magari ad arrivare a una certa decisione, ma quando ci si arrivava era più o meno una situazione che forse non accontentava tutti, ma sicuramente non scontentava tutti, cioè nel senso era comunque quella via di mezzo che aveva un senso anche dal punto di vista proprio strettamente istituzionale. Una visione della democrazia è quella che vuole che comunque quanto più possibile la gente sia contenta, diciamo così, cioè non contenta, insomma, quantomeno riesci a raggiungere con la tua decisione il maggior numero di persone possibili. Ecco, questa cosa per esempio alla Meloni a un certo punto gli è sfuggita di mano, perché secondo me quando lei si è resa conto che a un certo punto la debolezza, cioè quindi il calo di importanza politica di Salvini e anche il suo attaccamento al governo, diciamo, al voler stare all'interno della maggioranza, avevano messo la Meloni stessa appunto ad essere nelle condizioni di essere una sorta di chiave di volta all'interno del movimento di centrodestra, che secondo me nella sua testa si è trasformata in questo momento sono la persona più importante e rilevante e influente all'interno del centrodestra. Tant'è che ovviamente lei si è uscita con una frase che è politicamente sgarbata, perché associa praticamente il Presidente della Repubblica a un'area politica piuttosto che a un'altra, il che in teoria questa cosa è un discorso che dovrebbe essere completamente escluso proprio nella frase, non nel fatto che chiaramente un presidente apparterà sicuramente a un'area politica o roba del genere, però tu comunque non devi mai accostare la figura del Presidente della Repubblica come quello è di sinistra e quello è di destra, no? Perché chiaramente tendi poi alla fine, come posso dire, a sminuire quello che è il lavoro di costruzione di quello che sarà poi il prossimo Presidente della Repubblica. Perché lei ha detto sì, la mediazione, però poi alla fine noi qua siamo un po' rotti al cazzo, mica sono tutti presidenti di sinistra, e mo è ora di fare un presidente di destra. Che poi tu già dici fa un presidente di destra, fai vibrare la schiena almeno al 50% degli italiani. Ma proprio perché le due parole insieme si associano proprio male, capito? Cioè non è per cattiveria, insomma, no? Perché a un certo punto lei se l'è sentita calda e quindi ha cercato di giocare di forza, no? Perché diceva draga, tutto il centro-destra non è chiaro, perché io mo adesso so la meglio del bigonzo, e invece tutto questo qua gli si è risbattuto sulle gengive, perché gli è ritornato indietro con un grosso fallimento, un fallimento importante, al di là, no, del discorso del Presidente della Repubblica, che appunto parlavamo ieri sera in maniera più approfondita e più generale in OGM, quindi andatevi a ripescare la puntata, perché abbiamo cercato di fare un discorso più a largo spettro. Io invece mi soffermo proprio sull'incapacità di avere una cognizione politica di gente come Salvini e la Meloni. Perché? Perché non vengono, non sono mai stati istruiti dalle scuole di partito, che secondo me alla fine sono cose determinanti. Oppure se mai avessero mai partecipato alle scuole di partito, alle scuole politiche, quindi alle scuole di istruzione politica, secondo me i giorni erano, i giorni quelli più importanti erano assenti. Polaroids all scattered across the dusty floor, in the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrapper. Looking back, to when our castle was a shack. Vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forget more than we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. But how could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding, all that I can see is that I lost you. Lost you then. I'm looking for a reason to forgive you. And sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright. Alright now, I am tearing down this wall. Go by and gradually the tears run dry, but I'm still here looking for your face in the faceless crowd. Long after our final ship had drowned, it wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right, but how could I forget about you leaving? My heart has never stopped bleeding. All that I can see is that I lost you. Lost you to them. I'm looking for a reason to forgive you. Sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright. Alright now, I am tearing. Stop bleeding. All that I can see is that I lost you. Lost you then. I'm looking for a reason to forgive you. Sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright. Alright now. I'm tearing down this wall, eh? Insomma, anche qui insomma, andiamo sempre sul detto, questo è il mood della giornata, a parte la canzone iniziale che insomma, ha voluto far capire quanto rumore c'era nella mia testa in quel momento. E per niente ragazzi, dico una cosa, che intanto saluto anche Leo, saluto Walter che ovviamente ci hanno raggiunto nella diretta. Walter pare insomma che stamattina, sai come quelle mattine entrate in cazzo, e vabbè, per tanti di noi insomma potrebbe essere una cosa, una quotidianità diciamo così. E sto per dire una cosa che vi sconvolge, perché io sono d'accordo con Donald Trump. Lo so, questa è una cosa che di per sé potrebbe insomma lasciare un po' basite le persone, ma io sono d'accordo al 100% con Donald Trump quando dice che Biden, in qualità di pessimo presidente degli Stati Uniti d'America, rischia di portare il mondo verso la terza guerra mondiale. E c'ha ragione, perché per quanto Trump non sia stato migliore facendo degli atti di forza economici nei confronti forse della forza militare più potente al mondo in questo momento, ossia la Cina, perché noi questa cosa non la diciamo, ci piace pensare che gli americani, che sono i nostri amichetti, sono ancora quelli col pisello più grosso, ma in realtà sono abbastanza convinto che la Cina, anche solo numericamente, insomma, sia di gran lunga più potente da questo punto di vista, forse meno influente da un punto di vista mondiale, perché chiaramente loro strategicamente si sono meno espansi, no? Anche se poi non lo sappiamo, perché noi non conosciamo poi in realtà la situazione geopolitico-militare insomma della Cina, non è che sia una cosa che leggiamo tutti i giorni, a differenza invece di quanto sono fighi gli americani e tutte le basi NATO che c'hanno. E quindi non è che Trump non abbia mai rischiato insomma di creare un incidente politico tale insomma da creare un'inclinazione dal punto di vista mondiale. anzi, però diciamo che Biden sta a fare il suo meglio, sta a fare il suo meglio, come abbiamo già detto in altre puntate, come dice anche Walter Vannini, la maggior parte dei presidenti democratici che per dimostrare di essere all'altezza, lo dicevamo ieri sera anche a OGM della politica, no? Quando la sinistra ha voluto dimostrare di essere leggibile, di una forza di governo, ha dovuto sinistra, ma manco più di tanto, insomma, capito? Cioè, nel senso, era un po' questo il discorso, e la stessa cosa ovviamente fanno certi democratici che per far vedere, insomma, che c'è una forza, una capacità di governo e rispetto di quelle che sono le ideologie, perché loro chiamano stile di vita, ma in realtà stiamo parlando di ideologia, no? Perché quando valeva per l'URSS che doveva cadere l'URSS, allora le ideologie brutte, però per quando si tratta dell'ideologia americana, quella va assolutamente bene. E insomma, alla fine comunque il comportamento è lo stesso, anzi molti dicono che ci sono politiche più da destra nei democratici che nei repubblicani, e in alcuni casi, in alcuni frangenti è stato anche così, però poi ci sono delle differenze molto importanti, perché una cosa è che gli Stati Uniti nel momento di massimo splendore, quindi appunto successivamente dopo la caduta dell'Unione Sovietica e quindi tutto il blocco comunista, rimaneva praticamente apparentemente la forza più potente, no, dal punto di vista mondiale, quindi poteva in qualche maniera imporre determinate situazioni, sanzioni, oppure nell'epoca appunto in cui c'era Kennedy, che gli americani insomma era stato un ventennio, un trentennio in cui cercavano di influenzare la politica in generale, anche soprattutto nelle Americhe, quindi cercando anche di far salire su dittature che gli facevano comodo a loro e via dicendo, insomma le zozzate della storia, nella storia insomma dell'ultimo secolo degli americani le conosciamo più o meno tutti. Però ribadisco, una cosa è che tu imponi per 40 anni un embargo a un'isola come Cuba, che è sopravvissuta nonostante tutto, perché non si tratta di vivere ma si tratta di sopravvivere nonostante tutto, un embargo disumano, economico e alimentare, e quindi cioè nel senso rischiando semplicemente perché a te ti puzzava il culo che c'era un'isola socialista vicino alla tua grande America supercapitalista, quindi scontro ideologico, non stava parlando neanche scontro militare, tant'è che vi siete inventati di tutto sulle bombe nucleari, le armi, le cose, l'invasione, stronzate e via dicendo. E la cosa è che tu questa cosa la fai nei confronti della Russia, che negli anni, nei decenni, riorganizzando le sue forze interne e ovviamente ricostruendo un apparato successivamente alla caduta del blocco sovietico, non è l'ultimo degli stronzi, non puoi andare dalla Russia e imporre i tuoi blocchi economici, le tue sanzioni economiche, non lo puoi fare in maniera leggera, così semplice, non è la Corea del Nord. È la Russia, cioè nel senso è la terza potenza militare a livello mondiale, cioè non stiamo, forse anche la seconda volendo, non stiamo a parlare più degli ultimi degli stronzi, capito? Di gente che era in balia del post comunismo, della grande transizione, del mettiamo tanti McDonald's dentro così e buttiamo tanto zucchero nel cervello e diventano tutti stupidi, ma tanto i russi penso che stupidi lo erano pure prima, quindi non è che cambiava niente. In più ovviamente hanno anche un governo, quindi una presidenza che è abbastanza forte, cioè vuole una posizione, e siccome che la storia dell'Ucraina, abbiamo detto, è una cosa che andrebbe analizzata, un po' affrontata da tutti i punti di vista, non soltanto al fatto la Russia vuole invadere l'Ucraina, salviamo l'Ucraina e facciamo le sanzioni alla Russia, no, perché poi anche lì c'è un gioco basato sul controllo energetico, su una questione strettamente finanziaria. Se gli americani vogliono fare la bilancia morale del mondo, le sanzioni economiche le facessero alla Polonia invece di farle alla Russia, che forse lì può essere motivato da un certo punto di vista. Vai in Polonia, dice siete delle merde, state distruggendo 100 anni di lavoro sui diritti umani, siete delle merde, beccate le sanzioni, da noi non avrete più niente. L'Europa stessa, capito, che si trova con sti cazzo d'americani, no, che gli invadono casa, perché noi ancora non siamo riusciti a dire America bello tutto, bella la NATO, però ste basi me smobiliti, perché insomma mi un po' anche rotto il cazzo, in quanto noi ovviamente siamo tra virgolette, una confederazione internazionale. Non siamo più ovviamente una serie di paesi disgregati che stanno lì, dovremmo averci anche noi una nostra posizione, no? Ed è il motivo per cui la costruzione dell'Europa in senso politico è sempre stata rallentata, è per colpa degli americani, eh? Cioè non è che ci voleva mai tanto, insomma, scienza. Cioè, anche i russi, volendo, anche i russi. Però già al russo, secondo me, se la poteva giocare dal punto di vista anche di accordi, di cose. Ma gli americani si sentono il tappeto che gli si sfila da sotto le scarpe piano piano, e questa cosa non gli piace, non so capaci di abituarsi a dover ritornare ad essere un attore all'interno di una recita globale, ma loro vorrebbero essere attore protagonista. Comunque, alla fine Putin ha fatto una dichiarazione interessante, tutto sommato, con la quale lo so, vi sto per sconvolgere un'altra volta, sono d'accordo, perché mi ricorda la puntata di Boris, quando il tizio, adesso non mi ricordo come si chiamava il protagonista, gli dice: perché io, che so quello che te deve menà, sono l'unico che sta a cercare fa del tutto per non menatte. E secondo me la Russia un po' ha detto quello, cioè: noi non abbiamo intenzione di invadere l'Ucraina, non rientra nei nostri piani attuali, ma gli americani gli fa talmente comodo pensare e dichiarare che noi vogliamo invadere l'Ucraina, perché vogliono loro che si inneschi un meccanismo, che prima o poi faranno scoppiare la guerra. Perché questo è sempre stato così, eh? Cioè, loro, laddove comunque le situazioni erano più o meno sotto controllo, ma loro volevano avere una supremazia su quel tipo di contesto, andavano là e cominciavano a far scoppiare la guerra, dicendo che Saddam Hussein, ricordiamocela questa cosa importante, Saddam Hussein, c'erano delle prove documentate che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Poi queste prove non l'ha mai vista nessuno. Poi dopo è stato dimostrato che non era vero. Ma non solo che non era vero, ma che lo sapevano che non era vero, e che erano tutte cose false. Ma questo in generale è sempre stato così, no? Arrivano gli americani che ti dicono: ah, una cosa dell'intelligence dice che lì ci stanno le bombe nucleari. E secondo me un presidente degli Stati Uniti d'America, quando arriva l'intelligence col fascicolo, qui ci sono le prove, ma qui c'è solo un foglio dentro dove ci sta scritto prove. Sappiamo che ci sono le bombe nucleari, cioè, ma non capito. E il presidente dice: boh, mi sa che quando mi mandano sti messaggi così, forse non posso fare più di tanto, insomma. E vabbè, niente, questo è un po' il discorso, che alla fine sta storia, dai, vediamo un attimo, perché ancora una volta Biden sta a fare una figura di merda incredibile, e non so quanto poi in realtà l'alleanza NATO sia disposta ad andare dietro a questa presa di posizione stupida di un vecchio scureggione che non si ricorda manco più come si parla in inglese, e quindi Biden, fai una cosa, fai un favore a tutti quanti, vattene a fanculo pure tu, perché lo so che se te ne vai a fanculo tu poi ritorna quell'altro, però guarda, ti assicuro, tutto sommato almeno c'avevamo qualcosa di cui parlare e ce facevamo due risate. Mi è piaciuta la canzone, ma perché a un certo punto è successo che l'ho presa e l'ho cancellata mentre la stavamo a sentire, quindi sono cose che succedono la mattina quando sei un po' rintronato, ecco, diciamo così. E adesso provo in tempo reale a risistemare la questione, perché vediamo un po', perché insomma qui un po' così, faccio così, poi dopo lo metto là, questo lo metto su, ecco qua, però ci sto quasi per riuscire, mica è detto, perché faccio così, faccio colà, ma dove sta, ma non madro più, mannaggia, vabbè, comunque, eccola qua, bene, e quindi stavamo a dire: vai, vattene a fanculo. Thank you. had it been better, back again, my familiar stand. Nothing more than a thought to relate to. Tied it up for better or worse. I'm going back to my ways, to the sand. Vabbè, questa era The Sanctuary. È incredibile come io senza argomenti alla fine dico vabbè, boh, forse se 35-40 aiuto, alla fine arrivo sempre che chiudo la trasmissione. Mi fa veramente piacere. Pensate le cazzate che dico. Deve essere veramente a famuggio, uno di questi mi risento. Vi ricordo che subito dopo di questa trasmissione ci sarà un brano, così, giusto per smaltire un po', e poi ci ascolteremo la puntata di MTB Summer Radio di Alex, con, di Alex Raccuglia con Roberto Marin, che è stata trasmessa giovedì sera e che è uscita giustamente in podcast ieri, e quindi ve la potete ascoltare in podcast o ve la potete ascoltare su Runtime Radio .it adesso subito dopo di noi. Vi ricordo che il 6 febbraio alle ore 16 io faccio la mia live di 2 ore per festeggiare i miei 50 anni. Mi piace farlo, mi piace l'idea di farlo insieme a voi della radio, che siete stati un po' la mia compagnia per tanti anni. Avete fatto compagnia a me, a Michela, e così come noi vi abbiamo fatto compagnia a voi, e quindi c'è stato questo bellissimo scambio. E vi ricordo che questa sera alle ore 20, dalle ore 20 alle 20:45, torna ovviamente Walter Sbano con le orazioni della sera, quindi il martedì, mercoledì e il giovedì sera, e domani mattina ritorna il nostro carissimo Leo Vargheon. E non lo so che altro dire, non lo so. Comunque ricordatevi di andare su www.orantamiradio.it e di andare sul pulsante Anche Io, dove potete tranquillamente trovare il sistema per contribuire con la nostra radio tramite una donazione, una tantum su PayPal oppure una donazione ricorrente su Patreon. E ricordatevi sempre che queste donazioni non è che servono per andarci a mangiare la pizza, ma perché aiutano la radio a sostenere il proprio progetto con quelli che sono i costi fissi e costanti che ci sono all'interno della nostra organizzazione. E detto questo, io direi che per oggi è tutto. Mi sembra insomma che non ci sia più nient'altro, quindi ci becchiamo dopo con MDB Summer Radio, e ovviamente buona giornata, un cazzo a tutti quanti.